Storiacce di Raffaella Calandra. Noi a 33 anni di distanza non sappiamo ancora perché c'è stata questa strage e chi l'ha organizzata. Perché la giustizia in questi casi rallenta così tanto? La legge dello Stato dovrebbe essere a favore delle vittime e in questo caso non lo è. Ora è successo al processo per la strage sul Rapido 904. Quando ormai era vicino alla sentenza, tutto da rifare dopo 33 anni per l'applicazione di una nuova norma e per il pensionamento di un giudice. Capita però molto spesso, anche a casi molto meno noti, di rinvii delle udienze a date da destinarsi per problemi di notifica, per inceppi burocratici, tradizionalmente per mancanza di magistrati e di cancellieri. I tempi lunghi della giustizia, sia civile che penale, 370 giorni è la durata media di un processo civile ed è pure molto diminuita, si trasformano allora in costi e ostacoli per l'intero sviluppo del paese, come per troppo tempo non è stato, ahimè, compreso. Ora si registra un'inversione di tendenze e gli sforzi, sia economici che legislativi, sembrano andare proprio in questa direzione. Ma se si entra in molti tribunali, quella italiana resta una macchina giudiziaria ingolfata che fa fatica a dare risposte. E da qui allora parte questa puntata di Storiacce. Il paese ha sete di giustizia, di legalità, di efficienza e di efficacia della giurisdizione. Il paese chiede che la legge venga applicata in modo uniforme e rapido. Alla fine, da qualsiasi storia si parta, si torna sempre qui, si torna al peccato originale della giustizia italiana, sia che si tratti del processo per una strage di 33 anni fa, sia che si parli di questioni economiche molto più recenti che toccano il civile. L'imprescindibile nodo resta la scarsa efficienza della nostra giustizia, invocata a nome dei cittadini anche dal primo presidente di Cassazione Giovanni Canzio e praticamente ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. Tante le ragioni e le conseguenze dell'ingolfamento della macchina giudiziaria. E allora che cosa succede? Che in una situazione del genere anche riforme dettate da tutt'altre ragioni vengano poi percepite dai cittadini invece come un ulteriore motivo di lungaggine. Con buona pace della sete di giustizia, appunto, di chi, ad esempio, come Enza Napoletano, aspetta ancora di conoscere i responsabili e le ragioni della strage a cui è scampata nel 1984. E ora fa fatica a capire perché il processo d'appello debba praticamente ripartire da capo. La delusione, il sapere che comunque, purtroppo, questa è una strage messa da parte. La riforma del ministro Orlando, si sapeva che si doveva applicare la normativa che il processo andava rifatto da capo. E non penso che è una cosa che si doveva decidere in questi giorni, a pochi giorni dal pensionamento del giudice. Una presa in giro. Le parti civili si sentono proprio così, prese in giro. Visto che a pochi giorni dalla sentenza d'appello a carico di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, sono praticamente da ripetere le parti fondamentali del processo per un combinato di due diverse ragioni. Perché il presidente della Corte d'Assise d'Appello va in pensione e perché nel frattempo la riforma della giustizia, entrata in vigore ad agosto, ha stabilito che se un imputato viene assolto in primo grado, come era stato in questo caso per Riina, quando c'è un ricorso della procura, i testimoni vanno ascoltati di nuovo in aula anche nel processo d'appello. E stavolta, visto l'imminente ritiro del giudice, non c'era abbastanza tempo per convocare i teste. Di conseguenza, il processo è stato rinviato a data da destinarsi, a 3 mesi dopo, a quando cioè veniva nominato il nuovo giudice. In soldoni è questo quello che prevede questa parte della riforma, dettata da un'esigenza di garanzia verso gli imputati, va chiarito, e Riina, davanti alla legge, è un cittadino, proprio come tutti gli altri. Ma l'effetto per sopravvissuti e familiari delle vittime resta il prolungamento dei tempi, così quasi da far passare nelle parti civili, come Rossella Manso dell'Associazione Familiari delle Vittime, l'idea che possa essere addirittura una legge dello Stato ad allontanare la giustizia. Siamo sconcertati, siamo amareggiati, anche un po' preoccupati, perché dopo 33 anni sentirsi dire che il processo deve ricominciare da capo perché una persona va in pensione ci dà preoccupazione, perché sembra che non si arrivi mai al punto finale. Una mancanza anche di umanità: non si pensa che i familiari delle vittime, i superstiti, stanno attendendo questa verità da 33 anni. Ci sono alcuni familiari di vittime che non ci sono più, alcuni genitori che non hanno mai conosciuto la verità sulla morte dei figli, e tutto questo passa in secondo piano. La conseguenza può essere anche questa, ma allora, prima di andare a vedere le ragioni dell'impasse di questo processo, specchio forse dello stato d'insieme dell'intera giustizia italiana, ricordiamoci, col racconto di chi c'era, cosa fu quella strage di Natale del 1984, la strage sul Rapido 904, di cui ancora si celebrano processi. Io ero in viaggio in diretta a Milano, stavo andando a casa di mia figlia per trascorrere il Natale con lei, con i miei due figli più piccoli. Non si è sentito lo scoppio, niente. Mentre parlavamo c'è stato il buio assoluto, non c'era nessun tipo di suono. Dopodiché sono incominciate le grida, era tutto buio, avevamo tutto addosso, c'erano i lamenti e c'erano i miei figli, uno dei quali stava morendo dissanguato. Mai si andava a ipotizzare che potesse essere una bomba. Io avevo 43 anni, mio figlio ne aveva 12 e il più piccolo ne aveva 10. Le vittime sono una delle parti del processo, non dimentichiamolo. Sono cioè quei cittadini che aspettano le risposte dalla giustizia, e di sicuro il loro dolore e anche le loro richieste di verità devono essere accolte. Tanto è vero che la Guardasigilli ha inviato a Firenze i suoi ispettori per ricostruire l'accaduto. Ma come lui, anche il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, ex magistrato, difende la parte in questione della riforma additata come responsabile e l'intero spirito della riforma. Questa interpretazione proprio la respingo assolutamente, perché innanzitutto qui si parla di reati imprescrittibili. Il diritto delle vittime è garantito da un processo che si realizzi, così come quello degli imputati, un processo che rispetti le regole. Cioè la giustizia non è un fai da te, non è un fare presto ad ogni costo, è un fare con tempi ragionevoli, perché che non si sono consumati, perché voglio dire, qui non ci sono. Sì, non c'è prescrizione, però allo stesso tempo, dopo 33 anni, ci sono anche alcuni familiari delle vittime o sopravvissuti che temono di non riuscire a vedere il momento della sentenza. Voi non temete che questo punto, diciamo, della riforma della giustizia possa ulteriormente contribuire ad allungare i tempi dei processi, che già appunto sono lunghi in Italia? No, assolutamente, perché tutta la riforma va vista tutta nel suo globale, e quindi nel suo complesso questa riforma proprio mira a creare delle cadenze più ravvicinate del processo, delle fasi processuali, anche spingendo le parti, anche gli avvocati, i pubblici ministeri e il giudice a essere sintetici nelle loro motivazioni, in modo da rendere il processo più snello. Come ha detto anche il ministro, questa novità non è una novità che abbiamo introdotto noi, è una novità che già c'era. Forse bisogna cercare, dal punto di vista anche organizzativo, i processi vanno assegnati a delle sezioni dove non ci sono a brevi pensionamenti. Il nostro Stato di diritto non può mai abdicare a quelle che sono le garanzie. Garanzie che non vuol dire lungaggine dei processi, vuol dire tempi diciamo cadenzati, certi, e per venirne a capo. Ora mi rendo conto che le vittime aspettano giustizia, ma qui parliamo di una strage, parliamo di un fatto molto grave che ancora che nella sentenza di primo grado peraltro vede ancora ignoti gli autori, insomma, perché insomma c'è stata una soluzione. Non ci dimentichiamo che c'è stata una soluzione. Quindi, e che quindi bisogna avere le stesse garanzie anche per l'imputato Totò Riina. Dobbiamo consentire ai giudici di poter prendere una decisione. Come si risolve questo problema? Fissando delle udienze con tempi, diciamo, ravvicinati. Non ci può essere il fai da te, non saremmo uno stato di diritto altrimenti, e non si deve fare presto a tutti i costi. E allora il nodo è riuscire a conciliare diritti diversi, altrettanto impellenti, e inserirli in una macchina della giustizia già di per sé rallentata da molti fattori. A chiunque sia capitato di avere a che fare con i tribunali per vicende penali e ancor di più per quelli civili, sa che innanzitutto si devono fare i conti con problemi di notifiche, con attese infinite, con croniche carenze di mezzi e personali. Ma ora la tecnologia può cambiare il corso e i tempi, insieme a nuovi magistrati e a nuovo personale amministrativo assunto, in pratica a nuovi significativi investimenti economici, perché forse all'origine di tutto è che con troppo ritardo si è capito come una giustizia che non funziona sia una zavorra per l'intero sviluppo del paese. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Storiacce. Le notifiche sbagliate, i tempi morti, le proroghe concesse. Ritorniamo sempre al punto di partenza. Non si tratta delle norme a presidio delle garanzie di tutti, sono a presidio degli indagati, delle persone offese, della società, delle persone che vivono nel paese. Si tratta di disfunzioni per lo più organizzative alle quali non si pone rimedio. È davvero così, come denunciano gli avvocati? Chiunque abbia avuto a che fare con la giustizia sa che tutto questo si ripete quasi ogni giorno nei nostri tribunali e le udienze si rinviano e i tempi si allungano e i costi per tutti lievitano. Così anche una norma voluta per aumentare le garanzie dei cittadini, una norma che prevede che se in primo grado l'imputato venga assolto nell'appello, i nuovi giudici debbano riascoltare con le proprie orecchie le dichiarazioni e gli atti di accusa dei testimoni e quindi non accontentarsi più solo degli atti del primo grado. Capita, dicevamo, che anche una norma così finisca per diventare un ulteriore aggravio per una macchina già di per sé rallentata. L'ultima volta è successo per il processo per la strage sul Rapido 904, quando stava per arrivare a sentenza, dopo 33 anni, tutto è da rifare, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, perché il presidente della Corte va in pensione e perché nel frattempo è entrata in vigore la riforma. Ma ben più profondi e strutturali sono gli affanni della giustizia, se dobbiamo registrare senza dubbio con sollievo il fatto che ora, nella giustizia civile, ad esempio, abbiamo 3 milioni e 700 mila cause pendenti a fronte dei 6 milioni di 4 anni fa. E se la durata media di un processo civile si è ridotta del 27% in primo grado, stando a dati del guardasigilli Andrea Orlando, così da 512 giorni è scesa a 370. Numeri che fanno capire come i problemi siano di gran lunga precedenti questa riforma, come quotidianamente verificano gli avvocati al fianco dei cittadini, tanto che le camere penali tempo fa avevano messo nero su bianco la loro disamina all'origine della lentezza della giustizia e la ripercorre per noi il presidente delle camere penali, Beniamino Migliucci. La Corte europea ha detto: se tu giudice di appello vuoi condannare una persona che è stata assolta in primo grado e quel giudice ha sentito i testimoni, se vuoi condannare dovrai risentirli anche tu, e questo credo che sia molto corretto e giusto. Ecco, dall'altra parte ci troviamo di fronte a due esigenze, a due diritti che devono in qualche modo convivere. Da una parte appunto il garantismo che impone di acquisire nuovamente le prove testimoniali, allungando inevitabilmente i tempi del processo. Dall'altra parte però ci sono anche le richieste di chi, come le parti civili, chiede chiaramente tempi che siano il più veloci e il più certi possibili della giustizia. Nello specifico del processo sulla strage al Rapido 904, quando si stava ormai per arrivare alla sentenza d'appello di una vicenda vecchia di 33 anni, ecco che il processo quasi deve ricominciare, questo anche per il pensionamento del presidente della Corte. Come far convivere queste due esigenze, questi due diritti? La ragionevole durata del processo è un principio costituzionale, ma anche uscendo dal caso concreto che ci occupa, il problema è della irragionevole durata dei procedimenti. Noi abbiamo indagini troppo lunghe, il 60% della prescrizione matura nella fase delle indagini. Ci sono statistiche ministeriali che dimostrano che i problemi sono di natura organizzativa, di mancanza di risorse. Noi abbiamo dei tempi morti che sono inspiegabili. C'è stato quel caso famoso di Torino dove è arrivato in prescrizione un processo per abusi sessuali dove l'appello è stato celebrato 9 anni dopo. Quindi io direi che il tema fondamentale non è quello di allungare i tempi dei processi, oppure di dire guardate che ci sono delle norme di garanzia che allungano il processo. La verità è che abbiamo pochi magistrati, abbiamo pochi cancellieri, che i tribunali spesso sono male organizzati e questo incide naturalmente sulla durata ragionevole dei processi. Abbiamo delle indagini che hanno una durata che io chiamo spesso canzonatoria, perché il nostro codice prevederebbe delle indagini che durano 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 2 anni, invece durano 5-6 anni. Questo incide sulla durata ragionevole del processo e questo naturalmente scontenta tutti, indagati e persone offese, oltre che la società. Pensate che erano 20 anni che non si bandiva un nuovo concorso per il personale amministrativo dei tribunali, colonna portante del funzionamento della macchina giudiziaria. Ora è stato fatto, come si sono rinnovati quelli per nuovi magistrati per andare a coprire i vuoti d'organico a volte cronici in uffici grandi e importanti, ma ancor peggiori a volte proprio in quegli uffici disagiati, quelli che hanno a che fare con la lotta ai clan in modo più forte, da Reggio Calabria a Foggia a Gela. Negli ultimi concorsi i nuovi magistrati assunti sono sempre stati meno dei posti vacanti. Ad esempio, nel 2008 253 erano stati i nuovi ingressi per 500 posti vuoti, quasi il doppio. Ed erano invece quasi 2000 quelli mancanti nel personale giudiziario, 1800 gli impiegati appena assunti nelle cancellerie e questo la dice lunga sui vuoti. Ed è proprio questo quello che la nuova riforma ha voluto compensare, come ci racconta il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti. Diciamo, non abbiamo bacchette magiche, però si è lavorato molto proprio in questa, diciamo, ottica, quello cioè di ridurre i tempi del processo, e quindi questo non vuol dire comprimere i diritti né delle parti offese né degli imputati. A questo punto come si deve lavorare? Si deve lavorare sicuramente cercando, appunto, come dicevo prima, di rendere le fasi più snelle, di evitare i tempi morti. Quindi ci sarà anche un ingresso di personale, sono stati banditi il primo concorso dopo 20 anni per personale giudiziario, quindi dopo le mobilità c'è stato un concorso, adesso ci sarà una copertura di posti di oltre 1000 persone, si bandiscono concorsi per magistrati, ce n'è un altro ogni anno, cui il ministro non ha mai mancato di bandire, quindi per coprire le piante organiche, perché ovviamente poi, e oltre questo, si è investito anche sulla tecnologia, quindi sull'informatizzazione. Nel processo civile l'informatizzazione è quasi è sostanzialmente realizzata e si sta, diciamo, si deve completare nel processo penale. Consentirà sicuramente accelerazione dei tempi. Ecco. In più, l'altra cosa, abbiamo anche agito sulla depenalizzazione, sull'archiviazione della tenuità del fatto, cioè cercare di non intasare i tribunali, i processi di fatti che possono essere risolti con una sanzione amministrativa per fatti, diciamo, lievi. Quindi tutto questo perché, d'altro canto, diciamo, il processo è qualcosa che costa la macchina giudiziaria, quindi va messa in moto. Costa la macchina giudiziaria, ma costa anche una giustizia lenta, perché chiaramente per il paese si traduce anche in una mancanza di investimenti e in costi supplementari che allontanano anche e appesantiscono anche proprio la macchina produttiva dello stesso paese. Ecco, presidente, tutti questi elementi che infatti sono stati accolti positivamente praticamente da tutti, contenuti nella riforma Orlando, che vanno in questa direzione, confermano però ancora una volta come si ritorni sempre all'essenza del problema della macchina giudiziaria italiana, cioè di una cronica mancanza di personale e di risorse che fa sì che ancora oggi quelli che sono tra i problemi più ricorrenti che portano a dilazioni di udienze e di processi sono le classiche notifiche sbagliate, errori, problemi di mancanze di cancelleria. Ecco, il nodo di una giustizia in cui forse è necessario cominciare ad investire in termini anche più costanti? Sicuramente questa analisi che lei ha fatto è quella, diciamo, che abbiamo fatto noi quando ci siamo insediati, abbiamo iniziato questa legislatura, ma direi anche parte della scorsa legislatura. Ovvio che una disattenzione rivolta alla giustizia di anni, se prima vi ho detto che un concorso per il personale di amministrativo della giustizia non è stato bandito per 20 anni, cioè quindi abbiamo un personale vecchio che andava in pensione e non veniva sostituito, quindi c'è stato un blocco dei concorsi fino allo scorso, alla stabilità in cui noi abbiamo avviato prima 1000 poi ulteriori 1000, cioè 2000 posti. Questa disattenzione ovviamente che c'è stata, perché la si è compreso con ritardo forse che il funzionamento della giustizia non è soltanto l'aumento di condanne e di assoluzione, ma è una garanzia dei diritti e quindi sviluppa anche la produttività di un paese e quindi il suo benessere. Ecco, investire sulla giustizia è qualcosa che sicuramente abbiamo fatto, non basta, bisognerà fare di più, però non siamo all'anno zero, dobbiamo proseguire in questa linea investendo, stanziando fondi, che dobbiamo investire sulla razionalizzazione delle risorse, ma al tempo stesso sul potenziamento di strumenti telematici, ma non solo, anche personale e qualificazione del personale. Ecco, noi per esempio abbiamo cercato di investire molto anche sulla professionalità, non solo dei magistrati, ma anche del personale, e anche la riforma della giustizia onoraria va in questo tempo, anche la riforma per esempio anche consentire ai giovani di formarsi nei tribunali con delle piccole borse di studio dopo la laurea, insomma il posto delle scuole di specializzazione che sono a pagamento. Tutto questo fa parte di una occhio nuovo, cioè potenziare, investire la giustizia, perché una giustizia che funziona è anche un segno di civiltà, oltre che una maggiore competitività del nostro paese. Una necessità concreta per tutti è quella di avere una giustizia più veloce ed efficiente, visto che ad esempio per la mancata riscossione del credito e per gli oneri finanziari legati, Confartigianato stima un costo dei ritardi di 2,3 miliardi all'anno. Eppure per un fallimento la durata si è già ridotta, tra il 2000 e il 2007 era di quasi 10 anni, ora invece una procedura fallimentare in media dura 8 anni e 6 mesi, quasi il doppio però della Germania. E questo pure la dice lunga sullo stato di salute delle nostre economie, e forse, sia pur con ritardo, anche in Italia l'inversione di tendenza c'è stata, nella consapevolezza che una giustizia lenta e non efficiente scontenta tutti. E si ritorna allora alle parole iniziali del primo presidente di Cassazione, Canzio. Il paese ha sete di giustizia, di legalità, di efficienza e di efficacia della giurisdizione. Il paese chiede che la legge venga applicata in modo uniforme e rapido. Voi avete mai avuto a che fare con la giustizia? Se vi va, raccontateci la vostra testimonianza scrivendoci a storiacce@radio24.it. Seguiteci in podcast dal sito di Radio 24, dove trovate anche le vecchie puntate della trasmissione. Per scriverci ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter invece all'account Raf Calandra. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a voi tutti un saluto da Raffaella Calandra.